Lo scisma confessionale tra protestanti e cattolici ebbe gravissimi riflessi politici e militari. Dal 31 ottobre del 1517, cioè da quando Lutero affisse le sue famose 95 tesi sulla porta del Duomo di Wittenberg, le guerre europee prendono spesso l'avvio come guerre di religione e soltanto dopo un po' mostrano la loro natura di lotta per l'egemonia politica e militare. Anche il babbo di Cristina di Svezia, Gustavo Adolfo, guidò un esercito di protestanti contro la Lega Cattolica e, in coerenza con quanto stabilito a Uppsala nel 1597, che vi sarebbe stata condanna penale per chi deviava dal luteranesimo, non ci pensava su due volte a giustiziare cattolici svedesi. Al tempo vigeva il principio secondo il quale al popolo era automaticamente attribuita la fede confessionale scelta dal re. E se dunque sua figlia Cristina, che a 18 anni è già sul trono, è in odor di conversione, sembra che stia per saltare il fosso da un momento all'altro, si tratta di un caso politicamente rilevante. La guerra dei 30 anni è appena finita, ci mancano solo i dubbi di Cristina per farla ricominciare. Rischiano di lasciarci la pelle in parecchi. La pelle ce la lascia davvero invece Cartesio. Il noto filosofo, infatti senza troppo entusiasmo, ha finito con l'accettare l'invito della regina Cristina di Svezia, che lo voleva alla sua corte, pronto a insegnarle la sua filosofia e i segreti della natura in orari impossibili. Rettitudine morale luterana, educazione militaresca, consapevolezza di quanto il sacrificio tempri l'animo garantendone le conoscenze, volevano che ella si svegliasse sistematicamente alle 4 e che convocasse il filosofo per le prime lezioni alle 5, giusto dopo qualche esercizio fisico e spirituale nelle fresche mattinate della Stoccolma invernale. Cartesio, che amava dormire e poltrire fra le coltri fino a tardi, ci andò poche volte, ma a sufficienza, come dicono le cronache più accreditate, per buscarsi un'influenza presto degenerata in polmonite e causa inequivocabile, l'11 febbraio del 1650, della sua morte. Era partito da Amsterdam il 5 settembre dell'anno precedente. In 5 mesi c'è rimasto secco. Anche perché allo scopo avevano provveduto due robuste dosi di arsenico. Questa seconda storia della morte di Cartesio è narrata in un bel libretto del medico e storico tedesco Eike Pies, che si intitola Il delitto Cartesio. In questo libretto l'autore rende nota una documentazione inedita sufficiente ad accreditare l'ipotesi che il filosofo francese sia stato in realtà ammazzato. Pies stava facendo ricerche su un proprio antenato che visse all'epoca dei fatti, quando gli è saltata fuori casualmente la lettera di un amico medico alla corte di Cristina di Svezia. In questa lettera, che era stata passata già al vaglio della censura reale, si ribadiva la tesi ufficiale della morte per polmonite, ma al contempo si registrava tutto il calvario del filosofo giorno per giorno, sintomo per sintomo. E i sintomi, per chi sapeva qualcosa di medicina, i sintomi erano quelli tipici dell'avvelenamento da arsenico. Al contempo Pies individua sia il movente che il potenziale assassino. Nella stessa ambasciata francese dove abitava Cartesio, infatti, era venuto ad abitare il monaco agostiniano François Viogui, che si fregiava del titolo di missionario apostolico nelle terre del nord e incaricato segretamente dal Vaticano di trattare la conversione al cattolicesimo della regina. Che Cartesio desse più di un fastidio ai cattolici è testimoniato sia dal fatto che anni prima era riuscito per un pelo a scampare ad un processo soltanto grazie ad amici potenti, e sia dal fatto che anni dopo tutte le sue opere furono messe all'indice dei libri proibiti. Erano anni in cui, peraltro, bastava formulare un abbozzo di fisica antiaristotelica per essere condannati a morte. L'ipotesi che Cartesio sia stato fatto eliminare dalla Chiesa Cattolica per non intralciare la conversione della regina è ben fondata. Che il delitto abbia poi pagato è dimostrato dal fatto che Cristina, 4 anni dopo, si converte davvero. Abdica, va a Roma, diventa l'amante del cardinale Dezio Azzolino, si iscrive all'Accademia dei Lincei, ispira l'Arcadia e ne fa abbastanza da meritarsi la reincarnazione in un fumettone cinematografico nel 1933 sotto le spoglie di Greta Garbo. Ecumenico sta per generale, universale, deriva dal greco dove era usato per designare tutta la terra abitata e abitabile. La Chiesa Cattolica ha sempre definito ecumenici quei concili cui partecipavano tutti i vescovi cattolici del mondo. Sulla legittimità di definirsi ecumenici, i patriarchi di Costantinopoli hanno litigato per secoli con i papi di Roma e, nel tentativo di non calare le braghe, questi ultimi a est hanno dovuto fronteggiare più di uno scisma. Il significato attribuito oggi alla parola è pertanto metaforico. L'ecumenismo è roba tutta loro e non concerne in alcun modo le altre chiese. Si comprende così perché, perfino in questi nostri giorni tanto apparentemente esenti da lotte relative al potere temporale delle chiese, il cardinale Ratzinger ricordi l'assoluta centralità della Chiesa Cattolica come sola dispensatrice in terra della piena salvezza. All'oibò incredulo ed offeso dei protestanti, Ratzinger risponde che ritiene la pretesa dei suoi amici luterani assurda, perché a suo parere le chiese protestanti al plurale svilente sarebbero soltanto strutture sorte da casualità storiche. E qui, a mio avviso, Ratzinger rischia quantomeno un'accusa di eresia. Se i protestanti sono il frutto del caso, è implicito che i cattolici invece siano frutto di una necessità. Necessità che in casa cattolica non si identifica né con l'abolizione delle classi e il comunismo universale, né con il determinismo materialista che avrebbe agognato Laplace, ma si identifica con la provvidenza. Provvidenza, tuttavia, ha responsabilità limitata, perché alla sua lungimirante capacità regolativa ogni tanto scapperebbe qualcosa, come la riforma luterana o come la lettera di quel medico che in pratica rivela che Cartesio è stato assassinato. Visitavo nei giorni scorsi uno di questi musei precoci che piacciono tanto oggi, un museo del gioco del calcio che, nonostante abbia da codificato così come lo conosciamo poco più di 100 anni di vita, si lascia già alle spalle le sue belle zone grigie di ricordi confusi e di cronache edulcorate per il conforto dei popoli soggiogati, diciamo. Fra i vari trofei esibiti e debitamente glossati, le magliette, le scarpine, gli stendardi, le medaglie o le ginocchiere dei portieri di un tempo, brillavano i palloni. Palloni che, a partire dal 1982, anno in cui la nazionale italiana si aggiudicò il campionato del mondo giocato in Spagna, no? E nel museo infatti non manca neppure la pipa donata da Pertini all'allenatore Berzot. Questi palloni dal 1982 risultano arricchiti dalle firme dei calciatori che hanno partecipato all'impresa di calciarli, come se la firma collettiva, garantendone l'autenticità, fissasse l'irripetibilità di quel momento e lo rendesse ancora più irripetibile, e in grazia di ciò conferisse valore, e un valore a questa volta commerciale, un valore quindi di tutt'altro genere di competizione, all'oggetto. i resti di Cartesio. I resti di Cartesio. Prima vennero seppelliti a Stoccolma, poi alleggeriti. Ricevono da alleggeriti ricevono varie successive sepolture in Francia. Che diventassero più leggeri di volta in volta è documentato dal fatto che alla prima esumazione un tale riuscì a intascarsi, lo sa Dio con che coraggio, l'osso dell'indice destro. E forse nella stessa occasione, o forse più tardi, qualcuno, data la sorpresa che poi provarono coloro che parteciparono alle successive esumazioni, beh, qualcuno si portò via il cranio. Pies, nel suo libro, ricostruisce anche la storia di questo cranio e può tranquillamente enumerarci almeno 14 suoi possessori prima che nel 1878 trovasse il giusto riposo, finalmente, nella sezione antropologica del Musée de l'Homme di Parigi. Li conosciamo tutti per nome e cognome, questi 14 fortunati. Perché? Perché ciascuno di essi ha pensato bene di apporre la propria firma sul cranio in questione. La rotondità evidentemente ispira. Ma i calciatori in fin dei conti hanno firmato un oggetto che hanno contribuito a valorizzare. Hanno fatto anche qualcosa d'altro oltre la firma. Nel collezionista di celebrità morte, diverso dalla Cristina di Svezia che come tanti potenti suoi pari collezionava celebrità vive, c'è una dose di parassitismo che aggrava l'atto di deferenza ideologica, il feticismo di cui si sono già macchiati.